il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo già avuto modo di occuparci in questa trasmissione di fiumi veneti in relazione alla siccità che ha colpito la nostra regione quest'inverno e anche in primavera. Oggi torniamo a occuparci di fiumi, ma da un punto di vista diverso, ovvero dal punto di vista, diciamo, dei pesci. In questo mese, infatti, come tutti gli anni, sono stati immessi in molti corsi d'acqua del Veneto numerosi esemplari di trote e di altre specie ittiche per ricostituirne la popolazione. Dove e perché e qual è lo stato dei pesci nei nostri fiumi veneti? Glielo possiamo chiedere alla dottoressa Fabiana Bilò, referente per la gestione degli obblighi ittiogeniti dell'Agenzia Veneto Agricoltura. Benvenuta, dottoressa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Visto che ho accennato alla questione siccità, io sì, le chiederei subito, anche se forse esula dall'argomento, i pesci dei fiumi veneti stanno risentendo, immagino, di questo problema, quindi della carenza di acqua. Certamente. Certamente, speriamo che piova. Secondo i rapporti dell'ARPAB, questa mancanza d'acqua non avviene da 60 anni, quindi siamo veramente, si sono impoverite le falde e questo comporterà degli ulteriori problemi se non ci saranno queste piogge per le popolazioni ittiche e anche per il materiale che è già nelle acque, quindi le associazioni, le amministrazioni provinciali sono costrette al recupero di questo dei pesci, sì, spostandoli in altri ambienti dove l'acqua è ancora presente. Quindi è un problema non da poco, con costi importanti. Ecco, sì, voi state immettendo dei nuovi pesci nei fiumi, ma se non c'è l'acqua rischia di essere un lavoro che porta poco risultato. La gestione degli obblighi ittiogenici comporta il ripopolamento delle acque con materiale entro l'anno, quindi sono animali molto piccoli, non devono superare a novembre 6-9 centimetri, quindi le emissioni che vengono fatte adesso sono di avanotti, quindi larve di 2-3 centimetri al massimo, quindi vengono anche immesse e corsi d'acqua come il Brenta, come nel Padovano, venerdì faremo una semina nel Trevigiano, e ambienti dove l'acqua è presente e costante, quindi vengono scelte ad hoc dalle amministrazioni provinciali, quanti infatti abbiamo molta cura la ricerca degli ambienti che ancora presentano acqua e continueranno ad averla. Ecco, quali specie vengono inserite? Cioè, c'è una ricerca, immagino, particolare? E anche da dove arrivano? Vengono allevati da voi? Dove vengono acquistati? Come funziona? Allora, perfetto. Allora, ci sono, il nostro ripopolamento è legato a specie ittiche di particolare interesse alieutico, vuol dire per la pesca, e conservazionistico, vuol dire specie che sono endemiche, che sono delle nostre zone e meritano tutela. A livello conservazionistico, noi seminiamo la trota marmorata, seminiamo il luccio e l'anguilla. Quindi, mentre per questioni alieutiche, la tutela della pesca, seminiamo la trota fario, la tinca, la carpa, e anche in altri anni veniva anche messo il persico reale. Quindi all'anno dipende delle taglie previste, quindi davano 8 larve a taglie 4, 6 e 6, 9 e immettiamo circa 1.600.000 individui in tutta la regione. Però sono allo stato larvale, abbiamo detto, quindi molto piccoli. Sì, non significa che avremo 1.500.000 di trote nell'estate, se probabilmente. Assolutamente. Allora, Quando parliamo, questo è molto importante, si parla del ripopolamento, non di emissione per la pesca. Ripopolamento viene definito come la traslocazione di individui di una specie ittica che è ancora presente nell'area di rilascio, allo scopo di incrementare il numero di individui della popolazione che oggi non è in grado di provvedere autonomamente al mantenimento di questa sua densità in un ambiente specifico. Quindi è molto, molto particolare, non è un'emissione perché ci sia tanto pesce, quindi vuol dire che sono delle popolazioni che devono essere tutelate perché possano incrementare nel futuro il suo numero e devono essere rustiche. E quindi il materiale che viene seminato da noi proviene, per quanto riguarda i salmoni, una parte della trote pario e completamente il materiale che viene delle trote marmorate viene dal centro ittico di Valdastico, che è in gestione a Veneto, di proprietà di Veneto Agricoltura, è ancora in gestione a Veneto Agricoltura. Mentre la trota fario, quello che non viene prodotto nel nostro impianto, viene acquistato da troticoltori privati, che hanno tutte le caratteristiche in regola per la semina, visto che sono specie certo. che devono rispettare delle normative sanitarie molto particolari. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo ad approfondire l'argomento tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Ostili, silenzio di quell'arbitraria indolenza. torniamo in linea con Blu Radio Veneto e con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del ripopolamento delle popolazioni ittiche nei fiumi del Veneto. Lo stiamo facendo con la dottoressa Bilò di Veneto Agricoltura. Abbiamo visto un po' quali sono i fiumi, quali sono le specie ittiche che vengono reinserite nei nostri fiumi. Dicevamo all'inizio della trasmissione che i fiumi sono scelti in accordo con le province e in base anche a delle caratteristiche particolari. Quali sono i fiumi del Veneto oggetto del vostro intervento? Beh, allora, come sappiamo, il Veneto è ricchissimo in acqua, quindi una regione che ha lo sbocco direttamente al mare Adriatico, con fiumi importanti come il Po, l'Adige, il Brenta, il Valtiglione, Piave, Tagliamento, così come altre fiumi risorgive di corso di corso molto breve e medio, no? Quindi certo. Dipende dalla provincia e delle caratteristiche in questo momento, proprio per la siccità, vengono valutati molto attentamente, però di solito con la gestione degli obblighi piogenici, che consiste in pianificare i ripopolamenti ittici delle acque del territorio regionale per lo sfruttamento delle risorse idriche da parte di concessionari di irrigazione ittica. Vuol dire che ci sono aziende che derivano acqua per diversi motivi di irrigo, idroelettrico, potabile, certo, che d'accordo al testo unico della legge per la pesca devono assolvere un obbligo idrogenico perché creano un danno, un'alterazione ambientale. Quindi è il pesce che viene seminato, proviene da questa gestione. Certo. E quindi il concessionario deriva in un certo corso d'acqua e quindi dovremo seminare a monte di quella derivazione idrica, visto che sta creando un'alterazione, ma questo in molti casi non può essere svolto, perché oggi è la siccità, domani è una derivazione ancora a monte e così via. No? O ad esempio il fatto di trovarsi fiumi con uno sfalcio che non è meccanico, quindi ha alterato le caratteristiche dell'ambiente. Senta, volevo chiederle proprio a proposito di questo, quali sono i principali problemi per i pesci nei nostri fiumi? Se c'è l'esigenza di ripopolamento, immaginiamo che ci sia anche probabilmente una mancanza di popolazione, quindi una carenza. E una volta si parlava di inquinamento, si pensava a quello, è solo questo il problema oppure ci sono altri problemi appunto per i pesci nei nostri fiumi? No, assolutamente, ci sono tanti problemi. Il fatto, uno di tutti, è l'antropizzazione del territorio, no? Lo sfruttamento eccessivo, il prelievo idrico a sua volta eccessivo, le asciutte che vengono effettuate periodicamente, parlavo anche dello sfalcio meccanico che crea la mancanza delle condizioni ecologiche per la riproduzione degli animali, l'eliminazione della vegetazione riparia, dove molte specie, le uova, si attaccano alla vegetazione, gli sbarramenti, artificializzando le arginature, tipo anche lo sforzo di pesca eccessiva, no? La pesca eccessiva, ecco, sì, come l'inquinamento. Sì, leggevo di una pesca incontrollata in alcuni fiumi, tipo il Po, abbiamo letto di episodi anche dei furgoni fermati pieni di pesce non controllato proveniente probabilmente dai fiumi del nord Italia. C'è anche nel Veneto questo tipo di problema? Succede, sì, ad esempio nel Rovigino, cioè le guardie provinciali devono essere molto attenti, anche i sanitari, visto che ci sono autorizzazioni che non possono essere non date da parte dell'amministrazione provinciale, visto che è previsto, nella pesca eccessiva è senza controllo, visto che mettano delle maglie o altri attrezzi non permessi e catturano, soprattutto portano via, interessa molto la carpa. Interessa molto anche il siluro, dove viene mangiato il pregio in quelle zone, e quindi caricano di tutto e si portano via il materiale senza nessun tipo di Quindi anche pesci che magari non vengono mangiati, però vengono comunque prelevati e impoveriscono la popolazione. Senta, ma in sintesi, rispetto per esempio a una decina d'anni fa, 10-15 anni fa, la situazione dei pesci nel Veneto si può dire che è peggiorata, migliorata, in via di miglioramento? Cioè, come possiamo definirla? Non, in via di miglioramento non direi. Allora, noi abbiamo 64 specie ittiche accertate nel nostro territorio, delle quali il 64% sono autoctone, mentre un 36%, quindi 23 specie, non appartengono al nostro territorio, quindi sono state introdotte con emissioni non autorizzate o sono scappate di allevamenti. E quindi è una situazione che si cerca di tenere sotto controllo, però le popolazioni di certi ambienti si sta recuperando, quindi troviamo un aumento delle popolazioni, come ad esempio nel Brenta e con la Trota Marmorata, visto che c'è stato un progetto pluriennale da parte della provincia, da parte della regione Veneto, per tutelare la Trota Marmorata, e quindi le emissioni vengono fatte con degli standard genetici particolari, si tutela le linee genetiche e quindi c'è un'attenzione molto particolare, lo stesso per il lucio, lo stesso per l'anguilla, e altre specie, la carpa viene pescata moltissimo, poi certo. Dovremo anche parlare degli uccelli ittiofagi che non c'erano una volta, quindi non potendo ancora controllarli. Quindi sono delle situazioni un po' particolari. Siamo, per certi ambienti possiamo parlare di un miglioramento, per altri un peggioramento. Nuovi fattori che hanno peggiorato la situazione. Ecco, un ultimo dei quali, e non ultimo per importanza, sicuramente la siccità. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. E ringrazio ancora la dottoressa Fabiana Bilò di Veneto Agricoltura per la sua disponibilità. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it e vi do appuntamento alla prossima settimana. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.